Stasera ho avuto un déjà vu a tu per tu con il mio io e mi sono chiesto, ma sono io o sono Blio? Ma io sono Leonard, nome incompleto dalla nascita. Quando mi chiamano, sbagliano. Quando compilano un foglio, sbagliano. Non mi ricordo perché mi chiamo così, ma qualunque sia il tuo nome, prendilo com'è. Perché? Mi chiamo Oblio e oh, Leonard senza O, ho il naso da troll, non trovo la parola che fa rima con all, ma Stefano mi suggerisce cosa rock and roll, no boh, il mondo è come i miei vestiti quando me li metto, mi va stretto, sono grasso, mi vendo a letto, sono un gatto, sono un folletto, senza petto sopra il letto con me stesso un battibecco, da quando sono nato squattrinato, non so, un po' sono felice dopo no, come Robinson Crusoe, oppure come Mork, sono fuori luoghi in ogni luogo, si lo so, sei Oblio, dolente o non volente, mi scambiano per la persona che ha prodotto vacca, ma ho tanti sogni nei cassetti, sì nei cassetti, non ci stanno nei cassetti, e ho comprato l'armadio Foppa Petretti, ho mille pupazzetti, ho gli uni di Strove, l'amore non lo ho, la tipa non ce l'ho, sono brutto, sembro Slot, dei Goonies, c'è una tipa innamorata, ma io dico cioccolata. Mi chiamo Oblio e O, Leonard senza O, datemi una O, datemi una B, datemi una L e poi una I, poppatemi sul beat, Oblio è il mio nick, sulle mani per Milano City dite O, sulle mani per Milano City dite O, sulle mani per Milano City dite O, poppatemi sul beat, Oblio è il mio nick. Mi chiamo Oblio e O, Leonard senza O, ho talmente fame che mi mangio le parole quando vado a registrare, le vuoi assaggiare, vuoi favorire, tanto i miei testi sono grassi, dai rendiamoli più scarni, si scarni, più magri, si magri, ma sì così per sport, tanto sono in carne, guardami, lo dice anche Ivano, che grasso sono in carne, che verme solitario nella pancia io c'ho un tremors, ho tanti complessi che sembro MTV Awards, di me cosa ne pensi, ma cosa poi ti aspetti, sto producendo il nulla, senti il nulla, ma che disco, è una burla, è una truffa, che faccia fai quando mi ascolti, sono nel lettore, ti risalgo nella cuffia, toglimi, toglimi, entro dentro al timpano, toglimi, toglimi, i martelletti battono, toglimi, toglimi, la staffa dice Arimo, dai toglimi, toglimi, entro nella tromba di Eustachio, Eustachio poi chi è, tra gli incuti nel martello, ma chi è? Mi chiamo Oblio e O, Leonard senza O, datemi una O, datemi una B, datemi una L e poi una I, poppatemi sul beat, Oblio è il mio nick, sulle mani per Milano City dite O, sulle mani per Milano City dite O, sulle mani per Milano City dite O, poppatemi sul beat, Oblio è il mio nick. Allora hai capito? Di nuovo te lo dico. Mi chiamo Oblio e O, Leonard senza O, ma quale rapper sono un manovale, o meglio un pendolare, ci faccio il controllore, sempre in viaggio come un pacco postale, fammi timbrare, guarda mi sono scritto in fronte posta prioritaria, dentro nel pacchetto manca l'aria, vorrei una tromba d'aria, nella vita faccio ciò che posso, per vestirmi devo andare da un tappezziere d'oltremare, perché la taglia che possiedo è la 70, il grasso mi coiventa e la pressione aumenta, cambio, sì cambio, cambio così tanto e non ricordo perché cambio, adesso spingo il cambio, poi mi cambio e quasi quasi mi rotto. Tamo. Sai, so paturnie, paturnie da ambo i lati e non mi lavo. Ingrasso a vista d'occhio, se l'occhio non mi ha vista, ingrasso a vista naso, pullulando in abbondanza. Assorti in una stanza, mi divoro l'impossibile. Se danno missione impossibile nei cinema, io mi mangio l'impossibile e resta la missione. Alza la tua voce, Oblio è il mio nome. Mi chiamo Oblio e O, Leonard senza O, datemi una O, datemi una B, datemi una L e poi una I, poppatemi sul beat, Oblio è il mio nick. Sulle mani